si apre, solo verso l'orizzonte, un pensiero solenne a quest'ora che farai. Forse stai aspettando l'autobus e pensi che oramai si è fatto tardi e mi penserai. Io la scuola, la domenica a ballare e nell'aria c'è l'odore dell'estate che verrà. Salutando ti dicevi, ora te ne vai, non ritornerai. Scuola, la domenica a ballare e nell'aria c'è l'odore dell'estate che verrà. Salutando ti dicevi, ora te ne vai, non ritornerai. Ora te ne vai, non ritornerai.